Prenestino. Ad aprire Ichina e poi una saletta Studio 1 che sarà attrezzata a sound system con vari DJs che si alterneranno un po' per tutta la notte. Vabbè, ne parleremo più in là. Diciamo www.ondarossa.info, cliccate su ascolta e potrete ascoltare radio e streaming. Onda Rossa, @ondarossa.it, anzi punto info sempre. E potete con questa comunicare, mandate le vostre comunicazioni via email a Radio Onda Rossa. Il numero storico di questa emittente nel 1977. 06491750. Sapete che uso dovete farne del numero di telefono. Illuminate di rosso. Dicevamo, per sottoscrivere per la radio, 61 80 40 01, lo storico numero del conto corrente postale da intestare a Radio Onda Rossa, via dei Voci 56 00185, Roma, mentre qui davanti a me si fanno acrobazie quasi circensi. State comodi così? Facciamo suonare tutta la sigla, Thank you. why can't I walk down a street? Your suggestion. Abbiamo iniziato così questa sera perché, come annunciato, abbiamo un ospite in studio, anzi più di uno, direi si è fatta quasi un... La mette seria, in realtà diciamo uno non ci crederebbe, ma insomma arrampicato qua sulla scrivania del mister, c'è Giullelli. Ci abbiamo Gio che è venuto a trovarci qui negli studi di Radio Onda Rossa e ci vuoi ricordare magari tu direttamente, lo diciamo in anticipo, sarà un po' in italiano, forse di più in inglese, come ci viene, come sarà, come capita, sarà come a casaccio, come di solito, veramente me più in inglese. Più in inglese. Proveremo. Però ti vuoi una piccola presentazione, falla te, senza che ti facciamo le domande. Da dove vieni, con chi hai suonato, con, insomma, un po' la tua storia e che sei venuto a fare qua. Okay. I'm Joe Lally and I play bass in Fugazi. Ian Mackay and I started to play with a drummer in 1986. Giolelli dai Fugazi, il bassista dei Fugazi, assieme a Ian Mackay e a Gay. We began to play with a drummer in 1986. And a year later, Fugazi as it is known. E un anno dopo fondarono i Fugazi così come li abbiamo conosciuti. Played our first show. You came from Washington D.C. And I'm from Washington D.C. I come from the suburbs. I come from Maryland, the state of Maryland. Dallo state del Maryland, dai sobborghi, diciamo, di Washington D.C. nello stato del Maryland. And I began going to punk rock shows, you know, while I was in high school. Ok, cioè ha cominciato a suonare, diciamo, il punk da quando sostanzialmente era nella high school, quindi da abbastanza giovane. Ma io, insomma, intanto non so, sicuramente il professore qua avrà annunciato abbondantemente l'avvenimento. È chiaro che per noi, insomma, i Fugazi sono un punto di riferimento importante. Avere Joe qui per noi significa, insomma, capire assieme a lui un sacco di cose e soprattutto la curiosità di fare molte domande, perché tutto sommato sono, perlomeno per quanto riguarda la nostra età, diciamo il periodo ci hanno un po' accompagnato, il periodo corrisponde e diciamo che noi siamo cresciuti fondamentalmente assieme ai Fugazi, ascoltando i Fugazi più o meno abbiamo scoperto di essere anche più o meno coetanei con loro, hanno più hanno meno. E insomma, mentre loro suonavano, noi ascoltavamo. Un po' questo succedeva. Intanto devo dire che, ripensando un po' alla rugosità dei temi Fugazi, uno si aspettava un fisico un po' più massiccio, un po' più rude. Invece devo dire che, insomma, è una persona estremamente pacata, diciamo, molto morigerata, direi, quasi morigerata. È passato molto tempo dall'epoca. Sicuramente noi ricordiamo nel 1992, quando veniste a suonare al Forte Prenestino, credo per la prima volta a Roma. E no, non no, era no, la prima no, volta. Abbiamo suonato, non so, 80, 89? Ah, anche prima. Ma sempre al Forte, comunque, dicevi. Sì, sì. Solo forte. Ricorda gli aneddoti del dentro fuori, pioggia, non pioggia, insomma. Sì, questo lo ricorda, no, bene. No, pensavo fosse la prima volta, invece no, c'è stati anche prima. Veramente prima, sì. Prima. Però l'effetto anche che facevate sul palco era di un'enorme coreografia di salti, di incroci, di uno spettacolo veramente, mentre adesso, diciamo, c'è una maggiore compostezza sicuramente nello stare sul palco, insomma, nelle tue ultime esibizioni. I'm not sure exactly what he asked. Because my remember is that I mean, you were even partially against the violence during the concert, so it was not really so physical, your presence in you know, during the show, yeah. No, I mean, we always, Fugazi was a band that wasn't going to watch people hurt each other in our audience. Yeah. Sì, Fugazi sostanzialmente erano abituati, diciamo, a guardarsi l'un l'altro, insomma, sul palco, e quindi ad avvicendarsi, ecco, nelle session. We were always going to speak out about it because we really felt the audience, you know, in the show that we were playing, that was, you know, the world that we were making, the people who came to see us. And ok, il feeling con le persone era, diciamo, molto buono, e lasciatemi dire che il link era diretto. Sostanzialmente le persone, diciamo, che ascoltavano, che partecipavano ai loro concerti, di fatto rappresentavano il mondo che loro avevano intenzione e stavano creando, tutto sommato. Quindi era so, people, you know, we they talk about us not letting people you know, slam dance or do a certain thing or jump off the stage, but this is what it was about. It was about being together with people. And what are we doing? Ok, insomma, dice sostanzialmente che cercavano di non esagerare, insomma, lasciando che le persone saltassero in maniera indiscriminata dal palco, ma tutto sommato alla fine, insomma, di questo si trattava, e questo era quello che più o meno facevano durante i concerti. Io direi, se vogliamo fare un primo stacco musicale, io direi di mandare adesso una band di Washington che sicuramente lui conoscerà. Così, tanto per omaggiare, e poi magari ci racconta pure un po' la Washington di quegli anni, e mano a mano poi quello che è successo fino a venire ai giorni d'oggi, le scelte che ha fatto, il venire ad abitare a Roma, eccetera. Intanto cominciamo dalla Washington del tuo tempo. Se lo vuoi. He was just saying if you can talk a little bit about the Washington of that time, and the time, of course, you were young and start to play music. Yeah, I coming from the suburbs, you know, I was a little bit late going into the city where everything was happening. Ok, lui dice che provenendo dalla periferia sostanzialmente era abbastanza tardi per fare il proprio ingresso, diciamo, nella città vera e propria. But there was a number of record labels and a lot of, you know, from the end of the 70s, you know, to 81, 82, there was more and more people going. E lo scenario sostanzialmente stava mutando, e diciamo il numero di etichette stava crescendo a dismisura, diciamo, nel periodo della fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, che poi è sostanzialmente il periodo in cui hanno iniziato a suonare assieme ai Fugazi. Ok, andiamo un po' più avanti negli anni e ci sentiamo questi Girls Again Boys. Ok. Just Bene, Girls and Boys, penso che ci suonava Brendan, vero? Sì, il primo disco. Mm-hmm. Non questo, credo, qui già non suonava più lui. Ok. E io, non so, vuoi fare due domande? Io, per esempio, una delle prime cose che sarei interessato a chiedere era un po' la diciamo, come il suo approccio alla musica, nel senso che in quel periodo quello che poi viene individuato, diciamo, come il post-hardcore, post-punk, mm-hmm. Era un periodo in cui un sacco di gente, diciamo, approcciava la musica in maniera, diciamo, assolutamente informale, insomma, nei garage, nelle cantine per strada. Mm-hmm. Anche la decostruzione stessa del suono, no? Cioè prendere un suono che era un po' quello canonico classico del punk, e invece strutturarlo, decostruirlo totalmente, inventarsi dei continui cambiamenti, dei movimenti. Sì, e quindi mi chiedevo se invece la sua esperienza, il suo approccio musicale è stato un approccio invece più canonico, cioè un approccio che partiva dallo studio della musica e quindi dallo studio dello strumento musicale, e poi successivamente, diciamo, partire alla ricerca della composizione musicale. Did you understand? Or maybe what I'm asking you is your personal approach to the music. It was informal, or instead it was? Did you start from study the music and your instrument? For me, personally, yeah. I went out and bought a bass and equipment and began writing songs. Ok, so, quindi sostanzialmente è stato assolutamente informale, cioè un approccio quasi emotivo col basso. Exactly. L'hai preso tra le due basse e hai cominciato a suonarlo, insomma, questo è stato. Yeah. E ora? Avevi 18 anni. Ok. O 19 okay. anni. Era molto, you know, tardi. Naturale. Un po' tardi, ma. E hai mai cambiato questo approccio, nel senso, poi ti è venuta la voglia, la curiosità di studiare, oppure hai continuato in maniera molto informale? I suppose, you know, it's been a long time, so since 1984 or 83 I may have started to play. So yes, after Fugazi I wanted to understand more about what I was doing. Ok, dice sostanzialmente che, insomma, intanto è passato molto tempo, era circa 18 anni fa, ma insomma, da quello che ricorda, subito dopo l'avvio, diciamo, dell'esperienza con i Fugazi, ha avuto la necessità di capire sostanzialmente quello che stava facendo. I played in, you know, little, you know, two small bands. Ok. Before Fugazi. Yeah, yeah. We know something about it. So I learned to make music with the other three people in Fugazi. Okay. That's how I made music. Ok, quindi sostanzialmente ha imparato a comporre musica, a fare musica sostanzialmente da quando ha raggiunto i Fugazi e gli altri tre componenti dei Fugazi. So when we went on break, I realized I needed to play music still. Okay. So I began to think more, exactly what am I doing? How am I doing it? And how do I do it alone? Ok, e questo è in linea, sostanzialmente dice che insomma dopo una certa maturazione, diciamo, ha avuto la necessità e il bisogno di chiedersi in che modo stava componendo questa musica, che tipo di musica stava facendo, e credo che questo sia abbastanza, come dire, ragionevole, prevedibile, insomma, nell'esperienza, nell'ordine delle cose nell'ordine delle cose. Allora, io non so, no, forse volevamo un po' affrontare il problema, cioè il problema, la tematica del do it yourself, cioè di come a quell'epoca, o volevi fare parlare di un altro? No, io intanto direi che bisognerebbe innanzitutto invitare anche gli ascoltatori, nel caso avessero delle curiosità, certo, che chiunque volesse, diciamo, porre una domanda rispetto ai temi che stiamo affrontando e magari porla direttamente 06491750, può utilizzare il telefono e la traduciamo velocemente. Uno dei temi che peraltro stavamo affrontando così attraverso una chiacchierata prima della trasmissione nello studio accanto, era il tema che ha riguardato i Fugazi e che insomma era una caratteristica, è sempre stata una caratteristica molto importante, tutta una parte della scena statunitense, a partire proprio da Jello Biafra magari, o da appunto le prime autoproduzioni statunitensi che i Fugazi hanno assolutamente abbracciato, accolto e amplificato, esteso, tradotto alla loro maniera, che era quello del do it yourself. Do it yourself, e quindi sostanzialmente loro insomma miravano fondamentalmente a diffondere il messaggio che la musica non è solo business e che tutto sommato, ad esempio, i concerti potevano e dovevano avere un prezzo abbordabile, così anche i dischi, e che tutto questo fenomeno dovesse essere in qualche modo saltare tutta una serie di intermediari del music biz, no? Cioè, esatto. Ora, questo è, vabbè, come gli ascoltatori sanno benissimo, insomma, è un tema che ci riguarda molto da vicino. C'è stata un fervore, diciamo così, sul tema dell'autoproduzione in Italia, in particolar modo alla seconda metà degli anni 90. Probabilmente negli Stati Uniti è stato un tema, diciamo, abbracciato, comunque approcciato prima che in Italia. Il paragone che facevamo era appunto col periodo della seconda metà degli anni 90, insomma, con le esperienze tipo 99 Posse, tipo Assalti Frontali, dove sostanzialmente era fondamentale riuscire a veicolare un messaggio che appunto era quello di rompere la gabbia, diciamo, di utilizzo della musica ad uso esclusivo del business, ma utilizzarlo, diciamo, per veicolare dei messaggi su tematiche politiche, ideologiche, sociali. Ecco, magari noi estremizzando questo aspetto, ma in proporzione i Fugazi, lasciatemi dire, che dicevano le stesse cose. Non è un caso, insomma, che in qualche modo hanno avuto a che fare con noi, sono, sì, venuti, le strade si sono incrociate a partecipare più volte. Ora, quello che dicevamo poi poco fa era il limite, diciamo, di questa esperienza è stato nel momento in cui ci si doveva porre come dire, il compromesso tra raggiungere il maggior numero di persone attraverso, cioè, il messaggio che tutto sommato era ritenuto fondamentale, il testo, il contenuto, con la necessità di autoprodursi. Ora, collidevano le due cose, insomma, non erano per forza concordi o accordati. E quindi una cosa che chiedevamo a Joe è io come lo chiediamo adesso, però magari lo chiediamo adesso sperando che ci abbia seguito e capito. Però quello che volevamo chiedergli è in che modo i Fugazi hanno affrontato questo tema e che tipo di risposta si sono dati, cioè dove hanno trovato effettivamente questo compromesso. Okay. I don't know, Joe, whether you I think I understood. No. Perfetto. What I would like to say is that Fugazi, you know, we came in 1987, and so we, in a way, we were reacting to what was there. Ok, sostanzialmente lui dice, vabbè, i Fugazi sono arrivati nel 1987 e stavano sostanzialmente reagendo a quello che era lo scenario di quel momento e ai temi di quel periodo. So Discord was a label that was making, you know, records available at a decent price. E, il tema era, diciamo, riuscire a trovare un'etichetta che in qualche modo mettesse a disposizione i dischi a un prezzo ragionevole. And they operated outside of the music, you know, industry. e quindi operando, diciamo, al di fuori di quelli che sono, che erano e che sono tuttora, anzi forse oggi più che allora, i canoni dell'industria dei dischi. And in 1987 era 6-7 anni per Discord. Yes. A quel punto era già 7 anni. Sì, no? Esattamente. Per loro. So for us we're just moving in a similar direction. We wanted to control our door price, our record price. Ok, più o meno quello che abbiamo detto in anticipo, cioè loro cercavano di agire nello stesso modo, controllando il prezzo ad esempio dei propri concerti e il prezzo dei propri dischi. E addirittura su internet ho letto che in qualche modo per ridurre anche i costi di gestione e quindi mantenere i prezzi dei concerti abbastanza bassi, voi evitavate anche di vendere gadget e materiale, diciamo, in qualche modo che vi riguardasse ai concerti, proprio per evitare che ci fossero delle persone da dover pagare, sostenere. Ma è così? Well, let's see. I think I'm a little bit lost in how we connected those two things. Right. Well, so I guess what I wanted to say was the early hardcore scene in Washington, D.C., it had no support. There was no music industry. So everyone did everything themselves. And we, in a similar way, we went out to play music. We had something to say, and we went out to play music. You have to translate. Okay, yeah, what you say, before to translate, what you're saying is that it was not really something unusual for that period in that place. No. Ok, lui dice sostanzialmente che lo scenario di quel periodo a Washington era sostanzialmente, diciamo, vai e fai quello che ritieni giusto, insomma, non c'era un'industria particolarmente strutturata da questo punto di vista e quindi... Era un terreno fertile. Esatto, l'autoproduzione in qualche modo era... Come dire, esatto, era un... Naturalmente. Un qualcosa di particolarmente quando naturale. Quando non c'è, tu fai... Esatto, cioè quando non c'è una struttura e tu hai voglia comunque di diffondere un messaggio, di dire qualcosa a qualcuno, vai e lo fai, insomma, questo è il tema. So Fugazi went out to play music and we found that part of the structure of people touring on their own, doing it themselves, was to bring things to sell so they could survive. But people would come see us, so we didn't have to sell things. Okay, and interesting. We were a band, not a store. Ok, dice, e questo è anche un altro, se vogliamo, the structure of the scene at the time was traveling bands sold things. Ok. Ok, quello che sostanzialmente loro facevano era girare per il mondo e, come dire, diffondere il proprio messaggio attraverso loro stessi e nel caso in cui ritenevano fosse necessario vendere dei gadget o dei merchandise, lo facevano loro in prima persona e senza necessità, diciamo, che questo merchandise in qualche modo li rappresentasse in maniera indiretta e scorrelata in giro per il mondo, insomma. Okay. Come... And people often asked us more about t-shirts than about our music. Ok, qualche volta capitava che le persone chiedessero più magliette che non musica dai Fugazi. And so we made it a point, since we hadn't started selling t-shirts, that we just wouldn't. Okay. If we could survive, then we wouldn't. Ok, so dice semplicemente che loro non... Da questo punto di vista non sono scesi a questo compromesso e non hanno voluto farlo, punto, è stata una loro scelta. And people, you know, in a similar way we would play clubs as we toured, and we would ask only for $5 for people to enter. Mm-hmm. And each year, more people would come see us, and the clubs would say, you can't keep doing this because you need a bigger club. Sure. And you'll have to ask for more money. Dice che ovviamente la loro politica di calmierare i prezzi dei loro concerti a un certo punto ha cominciato a entrare in collisione con quelle che erano le politiche commerciali dei club, che dicevano, insomma, ragazzi, voi non potete continuare a fare così, avete bisogno, diciamo, di più ampio respiro da questo punto di vista, che poi era il loro respiro, quindi il loro portafoglio. Interessante. E come, how did you react into this? We just said, well, we'll see. You know, vedremo. Okay, yes. So, praticamente hanno detto ok, se per voi non è corretta questa politica, vedremo, insomma. Evidentemente credo che la partecipazione dei vostri fan poi abbiano dato ragione, insomma, la vostra storia discografica. So, for example, New York City, we played the university or some place like a university instead of a club. Because all of the clubs, you know, were controlled by one entity, and they wanted to charge more money. Sure. Dice sostanzialmente che si sono trovati spesso, ad esempio, a fare dei concerti alle università piuttosto che nei club, perché ovviamente il circuito dei club era controllato dal circuito commerciale, dal circuito del grande business. So sometimes you just said no, okay. No show. Ok, quindi più di qualche volta hanno detto semplicemente no, per noi, diciamo, preferiamo non apparire, non suonare. But for example, in New York, we finally played a club because one promoter said, I don't care, I'll lose money, but I will be the one who brought Fugazi to the club. È successo invece una volta che a New York hanno suonato in un club dove il responsabile in qualche modo ha detto non vi preoccupate, a me non interessa la vostra politica sui prezzi, io preferisco essere o passare per colui che ha portato qui Fugazi. So we played two nights at a place called the Marquee. Well, and the Marquee is not really nothing. And it was five dollars. You know. E quindi alla fine hanno suonato per due notti al Marquee, quindi non a un club qualsiasi, insomma, al Marquee Club per $5, quindi beato chi se li è visti. Vabbè, noi abbiamo visti gratuiti al forte prezzo. Beh, sì, sottoscrizione. Non è che ci è andata proprio peggio da questo punto di vista. Davanti a 10.000 persone, se non sbaglio, più o meno. Eh sì, erano, sì. Io mi ricordo soltanto 10, una marea di gente. Va bene. Ecco. Allora, aspetta, già andiamo avanti, diciamo. No, volevo mandare invece un po' di musica, tagliare un attimo e mandare l'ultimo dei Fugazi, The Argument, così piano piano poi lasciamo l'argomento Fugazi e andiamo verso l'argomento. Però se mettiamo quindi The Argument entriamo subito nell'era, diciamo, della maturità. Ma sono le 23:18 però, eh. Quindi è ora di no, no, va, no, va bene, ci abbiamo tanto da parlare. Va bene, va bene. No, ma poi ci parliamo pure dopo, che ci frega, torniamo indietro. Va bene, dai. Da The Argument, e già i suoni vanno cambiando praticamente dal primo disco esteso all'ultimo. Sì, spero di sì. Sono cambiate parecchie cose. Le sentiamo subito, perché poi andiamo a mettere non tanto le tracce più saltellanti, ma andiamo a mettere il centro del disco, che invece era più riflessivo, più calmo, più con ritmiche più dilatate. Ok? ritorniamo in onda, 23 e 24 minuti primi, Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza. Siamo in diretta, ospite studio c'è John Lelli, ex bassista dei Fugazzi, ora che ha suonato con gli Ataxia e tanti altri progetti che forse poi pian piano che chiacchieriamo con lui ci racconterà, e oggi insomma con varie band che intorno alla sua figura. In realtà qui diciamo ex bassista dei Fugazzi. Veramente sono ancora bassista. Okay. Ma esatto. Non suoniamo, ma okay. Cioè, in realtà ex non è la parola giusta. Quello che dibattevamo poco fa è che tutto sommato nessuno di loro ha mai detto la parola fine. Ci arriviamo dopo, dai. La parola fine ai Fugazzi. Esatto, i Fugazzi sono ufficialmente in stand-by. Okay. Detto questo, invece, torniamo un attimo indietro rispetto a quello che era insomma lo scenario artistico da una parte, ma che in qualche modo, e questo è quello che volevamo domandare, se in qualche modo diciamo tra la sfera artistica e lo scenario invece politico-sociale del loro tempo c'era una connessione, e se questa connessione c'era era un fatto, come dire, anche lì trasportato dagli eventi, oppure era una scelta precisa che loro volevano in qualche modo imprimere nei loro testi, nella loro musica. I don't know whether you understood. It very much was who we are, you know. So there is no, you don't have to make a conscious decision if that's what you're doing. Allora, il messaggio era, e comunque il loro vero interrogativo è, questi siamo noi, cioè noi siamo quello che suoniamo, siamo quello che diciamo in questo contesto. So if you know if you look at what the band did and you find that to be a political statement, for example, to keep the door price low, to keep the price of your records low, then you know that's what it is. Okay, lui dice sostanzialmente che se c'è da fare diciamo un'affermazione, diciamo dal punto di vista di qual è il coinvolgimento nella politica dei Fugazzi, un esempio che lui fa è quello che dicevamo prima, e cioè il loro modo, ad esempio, e su questo ci trova perfettamente d'accordo, insomma, perché ripetiamo è stato un tema per noi estremamente importante, e cioè il loro modo di controllare, ad esempio, la politica sui prezzi dei dischi e dei concerti, effettivamente ha avuto un impatto, diciamo, sul piano sociale. Adesso non indifferente, non lo so, non lo possiamo dire, però rispetto a chi diciamo guardava a quel filone musicale, insomma, questo sicuramente ha giovato. So if you like, you can bring that idea of Discord and of the band Fugazi and look at what Discord is today. They're still a label, even though many similar labels have fallen apart because of the change in the music, independent music world. Ok, lui dice che sostanzialmente se guardiamo a quello che l'etichetta, la Discord era ed è tuttora, tutto sommato diciamo che insomma, rifletteva come dire la politica di quel tempo, per cui io adesso cioè vorrei capire, quindi il tuo feeling, il tuo personale feedback rispetto a Discord. Well, what I want to say is that Discord is still alive as a business, mm-hmm. because they treat the customer fairly. E dice che sostanzialmente Discord è ancora diciamo un circuito commerciale vivo e che tratta tutto sommato in maniera abbastanza come dire diciamo equilibrata i propri clienti. So if you want to talk about politics, which I don't, because I don't believe in any of that stuff. I don't believe in really I don't believe in political theory. At the bottom of all of those theories are humans. Theories, political theories, are for humans to interact within. But we are the humans that are interacting. Quindi sostanzialmente dice che tutto sommato lui non crede alla politica come sovrastruttura teorica, perché tutto sommato noi siamo la politica e noi siamo umani, noi siamo la politica, non abbiamo bisogno di sovrastrutture per gestire il, diciamo, le nostre stesso, relazioni. Il nostro style of life che determina il mondo, le nostre Exactly. scelte. So if you like, you can take the example of Discord as a business, solely as a business. So as Discord over the years, everything about music changed. People don't buy CDs as much. But Discord is still there. Why? Because they treat their customers like humans. So if you need to pull in this into a political theme, then what if countries, banks, other businesses were set up to look after human beings? Maybe these things that are happening wouldn't be happening. E dice sostanzialmente che se noi guardiamo ad esempio alla Discord e tutto sommato ai cambiamenti che sullo scenario musicale ci sono stati, al crollo e alle crisi che hanno riguardato, diciamo, il mondo della vendita dei dischi, beh, Discord è ancora lì e tutto sommato fa dei volumi ancora abbastanza apprezzabili. Tutto questo avrà un significato, e lo ha, secondo Joe, relativamente al fatto che Discord ha sempre gestito e trattato, diciamo, i propri clienti in maniera equilibrata, come dicevamo prima. Then you were saying something else, but I lost. So if you want to use that as an example, you know, people talk about political theories and the state the world is in today. You know, if a bank was set up to look after people, you know, things would be okay. But the bank is not set up to look after people. It's set up to look after money. Likewise, if Discord was just another label that was built on trying to get more money, it probably wouldn't exist today. Cioè, dice sostanzialmente che nello scenario attuale, se dobbiamo fare un esempio, relativamente a delle sovrastrutture tipo le banche, poteva accadere, ovviamente non è accaduto, che le banche in qualche modo si occupassero realmente degli interessi delle persone. Ma questo non è, le banche non fanno questo, come sappiamo, fanno decisamente ben altro, e semplicemente, diciamo, come dire, lo scenario al momento non poteva che essere questo. Non è un caso che Discord sostanzialmente è nata per altri motivi, ha fatto altre cose, e diciamo le scelte che ha fatto relativamente alla politica sui prezzi evidentemente hanno in qualche modo pagato. So, la domanda successiva, io direi di passare, cioè, a quello che dicevamo in precedenza. Sì, ci siamo un po' persi. No, non ci siamo un po' persi. Noi prima ragionavamo rispetto a, come dire, all'importanza che ha avuto la band per Joe, e sul piano della sua formazione musicale. E quindi stavamo cominciando a discutere, diciamo, a microfoni spenti di come questa esperienza, diciamo, si è andata evolvendo. Beh, più o meno va introdotto il tema, diciamo così, dello stop, della pausa, che nel 2002 cosa ne è stato di questa esperienza che è durata 15 anni, che ha portato a tutti questi risultati che ancora oggi vediamo, e appunto come si spengono i fugazzi, come si mettono in stand by, per quale motivo, per quali scelte anche personali avete preferito, diciamo, fare questa scelta. So within the band, we recognized the need to take a break. We didn't understand how long. I certainly didn't understand. You know, 10 years is already passing. But from within the band, we understood that we needed to take a break. Quindi sostanzialmente lui dice che nel 2002 non c'è stato nessun motivo particolare al di fuori della banda, ma invece proprio nel gruppo tra loro hanno deciso a un certo punto che evidentemente era giunto tempo di concedersi una pausa e lui stesso ragionava sul fatto che insomma ragazzi sono passati 10 anni, voglio dire, forse abbiamo bisogno di altro. There were children being born, you know, parents were dying, just there was life to attend to. E quindi era una faccenda estremamente personale legata al fatto che ad esempio l'evolversi della vita, ovvero bambini che nascevano da una parte e genitori che morivano dall'altra, a un certo punto, come dire, la vita necessitava di essere seguita. Diciamo, questi erano aspetti che non potevano più essere evitati. So to force the band to continue working was not possible because we didn't want to do part of what we did, un per cento che abbiamo fatto. Dice sostanzialmente che forzare la banda, costringere il gruppo a proseguire, evidentemente sarebbe stato infruttuoso, cioè avrebbero forse anche violento rispetto, cioè fare una violenza pure su di sé. Yeah, I mean we now I forgot what I said. What am I answering? No, we felt that that yes, to force it to continue would be too much for the band to take. Ok, era troppo sostanzialmente per il gruppo forzarsi, cioè concedersi una forzatura anche da questo punto di vista. Insomma, per loro era giunto semplicemente in maniera molto equilibrata un momento di concedersi una pausa. Now I remember. Because if we couldn't do 100%, we needed to take a break. We weren't going to do part of what we did. Ok, sostanzialmente dice che una volta realizzato che non potevano più esprimersi al 100%, insomma, hanno preferito evitare di manifestarsi, come dire, in maniera parziale rispetto ai propri potenziali, e quindi hanno realizzato che non era più il caso di andare avanti in quel modo. Però tutto questo amichevolmente, senza nessun problema. Sì. E tutt'oggi vi scambiate tranquillamente contatti? Yes, and now the question would be, if we got together and began to write music and play, what would it be? Sì, la curiosità si chiede che cosa sarebbe oggi ricominciare sostanzialmente a comporre musica e a riproporsi. Sì, effettivamente sarebbe un bel quesito. Vedo che il tema del cambiamento è molto ricorrente nella tua dialettica. So you're using often the change. Everything is change, what will That's be it. So and it just keeps changing. E dice sostanzialmente che sì, insomma, non c'è modo di fermare il cambiamento, e soprattutto mi pare di capire che per te è un aspetto vitale il cambiamento. Sì. E vogliamo fare un'altra pausa e andiamo a un cambiamento? Sì, soltanto una cosa, sì. prima di una pausa, perché io voglio sentire la musica e lui vuole parlare. No, un attimo, perché no? Se no una fonte, se no magari ci scordiamo un tema secondo me invece importante che avevamo detto. Lo ospiteremo una seconda sempre volta. A microfoni quello spenti. Che ci dimentichiamo. E diciamo qualcosa di 28 per Scream. Quello lo dobbiamo dire. Ci teniamo. Dicevamo, no? Dopo questa pausa, a un certo punto è nato anche la necessità per te di capire, insomma, dopo questa esperienza così totalizzante, che cosa ne sarebbe stato del tuo percorso, cioè che cosa avresti fatto, come l'avresti fatto. Oh, I thought this was, he was talking about something I was answering later. Say that again. I mean, if you want to proceed later, I mean, we can just take a little break. Okay. Play, because I thought he was going to play. Okay, pausa musicale. Okay. And now you can tell me in English what you're at. 7:09 di Radio Onda Rossa, 23:45 minuti primi, in studio con Giollelli, che ormai non definiamo più perché ex non è. Quindi cerchiamo di sciogliere finalmente il nome. Vediamo chi è oggi Giollelli. Vediamo chi è oggi. E partivamo dal quesito che avevamo fatto, e cioè dallo stop, dalla pausa, diciamo, che si sono concessi in ambito Fugazi. Insomma, lui a un certo punto ha dovuto mettersi per forza di nuovo in discussione, visto che comunque la sua esperienza principalmente era stata Fugazi, sospesa questa, per oltre 10 anni, inevitabilmente, certo. Chiedere chi sono, che faccio, che cosa posso oggi esprimere, ridefinirsi. E lui ci raccontava prima a microfoni spenti, insomma, che ha fatto determinate esperienze. So, Joe, if you want to answer a little bit regarding your personal experience, you know, during the break with Fugazi. Well, I should say first that we all decided, and I understood very well, that the right thing to do was to take a break. But once we started the break, you know, I mean, it was. Like a nervous breakdown in a way. You can start. Lui dice sostanzialmente che, insomma, è stato sicuramente evidentissimo il fatto che una pausa fosse necessaria, ma a un certo punto, iniziata questa pausa, come dire, ha avuto una sorta di collasso nervoso, nel senso che sicuramente è stato un momento cruciale. Because I knew how to make music with those three people. ha in qualche modo, diciamo, riconosciuto, ha preso, insomma, capito che cosa significava fare musica con quelle tre persone. And the thing was is that I the music didn't stop coming. It, you know, there was just no band to play it, so that, you know, the music is still asking to be played. And did you feel, for example, in such moment, in a sort of stoppage, I mean, something like that? Scusate, lui diceva che tutto sommato in quel periodo, oltretutto, la musica era in evoluzione costante, diciamo che lui ascoltava nuove band, diciamo, era interessato comunque a nuove formazioni. I needed the band because that's how I had learned to play. Now that the band was on break, I didn't know what to do with the music that was coming to me. E quindi ha realizzato sostanzialmente che doveva in qualche modo imparare, diciamo, a studiare la musica sostanzialmente, perché, insomma, diciamo, tutto quello che lui aveva realizzato principalmente veniva dalla relazione con i tre dei Fugazi. Not exactly. We have a better translation for that? No. It's okay, you can. Lui probabilmente stava dicendo un'altra cosa, cioè stava dicendo che la musica gli entrava dentro e lui non sapeva come rivoltare, riportare all'esterno questa musica che gli entrava. Right, it was like I didn't have the tools. Ok, mancava la band e quindi mancavano gli attrezzi. Ah, quindi non c'era tutto sommato la possibilità, non aveva più la possibilità di manifestare, di esplicitare quello che pensava rispetto sì. a me. So I began to try to understand better how to do what I needed to do. How was I going to make music on my own? So I took a singing lesson to understand how to use my voice. I took a piano lesson, but not really to learn to play piano. Well, you tried it. E quindi sostanzialmente ha deciso di, come dire, cominciare a sviluppare, insomma, in qualche modo delle potenzialità attraverso, ad esempio, lo studio di come utilizzare la propria voce. Ha cominciato a prendere lezioni di piano, anche se poi realmente non è una cosa che hai portato avanti. No, I found people who understood that I'd been playing music for a long time. But there were things that I was missing. And so, like a piano teacher, they would play, and they would talk, and they would play. And I really don't understand how, but I learned a lot. E quindi sostanzialmente ha seguito, insomma, persone suonare il piano, non riusciva, se ho capito bene, non riusciva a seguire e ad apprendere in maniera strutturata, ma tutto sommato questa cosa, insomma, gli dava la possibilità di capire, di imparare. Because I didn't my relationship with music was always to write. I never really even tried to learn listening to records. My you know, it's just what I'm playing is just something that I'm feeling. It is the, you know, it's a pretty pure expression. E quindi sostanzialmente dice la sua musica è pura espressività, non ha sostanzialmente, è stato un approccio, come dicevamo all'inizio, molto molto emotivo con la musica, e quindi non ha mai seguito un vero metodo, diciamo così, nella composizione musicale. So when you need to learn things, it's hard to understand what you need to learn because it's just supposed to be there. E quindi quando hai necessità di imparare attraverso un metodo, cioè la prima cosa che ti chiedi è che cos'è che devo imparare. So, you know, all of the things I did when I would have a problem writing, I would do something about it. Even now, I need to write more guitar. Mm-hmm. So now, I'm playing the guitar every day. I don't know how to play chords, but I'm, you know, that's it. I just, when there's a problem, I take the problem and I deal with it until. E quindi ci sembra una persona che comunque rispetto a questo ha reagito in maniera molto pragmatica, semplicemente quando ha avuto insomma questo problema e in qualche modo si è confrontato con le possibilità che aveva, si è messo in qualche modo ha provato a imbracciare la chitarra, ha provato a fare sostanzialmente degli esperimenti con la chitarra. In the beginning sometimes there was words and melody and no music. And I didn't understand how I could put music to an already existing, you know, words and a melody. Ok, quindi lui dice che insomma a un certo punto si è trovato di fronte alla difficoltà di come collocare ad esempio la musica all'interno di un testo e correlarla quindi in una melodia sostanzialmente, che è di fatto poi un metodo per la composizione. And sometimes you know, or at least once, it didn't matter. I sing a cappella. One song. E quindi, ad esempio, un metodo che ha seguito per una canzone era, diciamo, quello di cantare a cappella. And so it's been, you know, it's been a very good experience for me, also without the band, because I'm learning. It was really an opportunity for you to learn something. Quindi dice che insomma sostanzialmente è stata alla fine un'opportunità per in qualche modo evolvere, per imparare delle cose anche senza la band. Non so, a questo punto. No, a questo punto noi abbiamo ascoltato. Passiamo immediatamente a 2 anni dopo, quando appunto pubblichi questo lavoro con Joe Frusciante e Josh Kirchnoffer. Che era il gruppo Adaxia, un gruppo insomma, come avviene questo incontro e really a project, you know, that has a band name and functioned like a band, you know, for about 12 days. Dice che sostanzialmente è stato un progetto e soltanto la difficoltà di trovare un nome ha preso, sono stati chiusi 12, diciamo, 12 giorni per trovare, no? È una bella, 12 giorni. Interessante. Tutto bene. Because we had moved to Los Angeles and John Frusciante was a big Fugazi fan and had come to a number of Fugazi shows, and it was normal because I lived there to talk to him about music. E dice che Joe Frusciante, che era un fan dei Fugazi, vi eravate spostati a Los Angeles, se ho capito bene. Sì. E per te era abbastanza normale parlare, diciamo, di musica con lui, insomma. Sì, and it just led to playing together. He was releasing a record every month for a year. So he was recording every month? He was making like a solo music, releasing a record on a label in California just every month. Per un anno. Quindi sostanzialmente lui rilasciava, diciamo che produceva sostanzialmente, eseguiva sostanzialmente dei rilasci mensili, cioè è stato di fatto a produrre musica ogni mese per un anno intero. So he asked me to do something else originally, to play some of the solo music that he and Josh wrote on previous records, just to play a live show. Ok, quindi facendo esclusivamente un concerto dal vivo del musica di lui, dal dischi solo. Ok. For nine songs for a show. But I, like I said, I don't do that. I don't really learn people's music, you know, quickly. So I tried, but I wasn't very good. e quindi ha provato sostanzialmente ad essere, diciamo così, così produttivo, ma insomma per un concerto. Ok. So I tried, but So John said, "Well, why don't we just make our own music?" Perché non facciamo appunto, diciamo, la nostra musica personale? Perché non ci produciamo, diciamo, la nostra? Sì, invece in questo concerto suoniamo musica di noi. Ok. So abbiamo fatto Ataxia. Ok. So maybe 5 days of writing music. You know, every day was like another 2 songs. Hmm. And then we went into the studio before the shows. And then one show became two live shows. And then we just suddenly, just molto veloci. Quindi è stato tutto molto proficuo, molto produttivo e molto veloce. E praticamente riuscivano a eseguire, diciamo. Abbiamo registrato dopo, non lo so, forse in una settimana abbiamo suonato 5 volte, abbiamo scritto 10 canzoni e prima i concerti lui ha detto andiamo per registrare, cosa pensi? Va bene se vuoi. So abbiamo registrato e non lo so, esattamente l'opposto di quello che accadeva con i Fugazzi. Con i Fugazzi ci dovevi vivere insieme per produrre. Sì. Con lui è bastato. Sì, perché lui deve he had to produce another record every month. But what was your feeling? I mean, what was your feeling actually regarding you this? You know, I had done things like that before. But no one was ever going to hear it again. It was going to happen once at a show. Okay. You know, you get together with friends for one show. It's like a project, we call. It's a project. We do. Yes. Play one show. E quindi fu sostanzialmente un'esperienza, diciamo così, unica, nel senso che ha avuto questo concerto, ma se ho capito bene, quindi well understood, I mean your feeling was not so let me say comfortable as it was with Fugazi. It was very different, but it just, you know, it was different people. Ok, semplicemente persone diverse con modi di fare, vivere, certo. Modo di fare e di vivere diversi. Ho pensato che era solo per un concerto, ma invece era 2 concerti e anche lo studio per registrare. E then it was, you know, that was it. I mean, we never did anything again. Ma no. C'è qualcosa, cioè possiamo ascoltare qualcosa? Do you like the final product? You know, I wish I knew it was going to be, you know, forever, per sempre, ma, you know, è così. Okay. That's the life. Yeah, I mean, you know, when you're just doing a project, it's, you're just doing the best you can, and you move through. I might do, you know, I might approach it differently now. You know. Yeah, but still I didn't understand exactly how you evaluate such projects. So what's your evaluation regarding that project? It was positive anyway, or? Oh, yeah. So you feel, I mean, it was an experience and that's it. It's great. It's just, you know, it was a surprise to for it to be 2 records. It was, you know, everything we wrote in 1 session. E quindi tutto sommato dice che comunque, insomma, la sua valutazione è una valutazione tutto sommato positiva, perché è stata un'esperienza, diciamo, particolare, il tutto si è consumato molto velocemente. Okay. Ma ha avuto anche una produzione abbastanza proficua. When you're writing music to play one show, you just want to write what you can remember to play, you know? I mean, okay. That's a big part of it. Yeah. So then the, you know, eternal part of the record was very strange, you know, because the record is there always. Sure. But the writing was for temporary, you know. Yeah. The writing was for a live show. Ok, so lui dice che sostanzialmente quando devi preparare, diciamo, un concerto, come dire, l'obiettivo è un obiettivo specifico particolare. Quando scrivi sostanzialmente musica per un disco, questa è una cosa che rimane. Abbiamo scritto per un solo per un concerto, per ricordare le canzoni e per suonare un concerto, ma invece era anche lo studio per registrare, e adesso è là per sempre. Ma va, quindi, bene? Ma tutto bene. But it was born as a show, and then it has brought in records. Sì, improvvisamente lui ha detto: cosa pensi? Andiamo a registrare questa cosa. Ho detto: va bene, andiamo. Okay. Non so. Did you agree with this or? Yeah. Okay. I mean, wasn't gonna say no. Ok, passiamo. Dai, passiamo ad altro. Pausa musicale. Loud sound. Mezzanotte e sei minuti, la conversazione si comincia a fare interessante. Abbiamo anche cominciato ad ascoltare la musica che ci ha portato Joe, cioè i Void, nella loro esposizione di lavori che fecero dall'81 all'83, e poi con questi magari andiamo a parlare anche di una cosa che ci premeva. E, dunque, una cosa che però volevo aggiungere, che già ti avevo raccontato prima, era quella, appunto, che il disco degli Agazia io lo trovai in un supermercato, in un supermarket qui a Roma, fra un espositore di slip da uomo e la frutta, le banane. C'era questo cesto con i dischi, dove c'erano molti dischi di musica neomelodica italiana, o classici di Domenico Modugno o di Claudio Villa, e c'era il disco degli Agazia dentro, che ho preso a una roba tipo 5 euro, 4 euro, non ricordo, un prezzo irrisorio. E poi con molta sorpresa, trovando appunto, perché quello lì era il periodo, in realtà, proprio a metà dello scorso decennio, intorno al 2004-2005, in cui in realtà si consumava una grossissima crisi del disco, del supporto, diciamo, con cui si ascolta la musica, e c'erano dei grossi cambiamenti nel modo di usufruire nei mercati. Lì si affrontò, forse prima ancora di questa crisi economica, la crisi della distribuzione dei dischi, di tutti questi intermediari che voi avevate anche cercato di saltare col Do It Yourself. Quindi un po' la domanda che viene un po' da sola è come hai vissuto anche questo cambiamento del modo di usufruire la musica, la crisi del disco, le modalità diverse della distribuzione e dei modi di ascoltare la musica. What can I say? Everything has changed. I really don't know where to begin, because I can't follow how much has changed. We are where we are. Quindi sostanzialmente è difficile rispondere a questa domanda, perché è cambiato tutto, insomma, da allora. Francamente, da dove iniziare non lo so. But if you think that where the story begins, when I began to play music, the punk rock music scene around Washington D.C. was not noticed by anyone, so that the difference now is that it's not just the music industry that's having a hard time, but also independent music. E quindi, se lui pensa, diciamo, a quando la sua storia musicale è iniziata, sostanzialmente lo scenario è profondamente cambiato, non è più soltanto l'industria e quindi l'aspetto commerciale, diciamo, il business ad essere in crisi, ma anche tutto sommato il circuito indipendente. But you know, the place that music comes from has nothing to do with the money that might or might not come. Many bands that I love, they were even on major labels, and they never got paid. E quindi, diciamo, se pensi ai posti da dove questa musica proviene, sostanzialmente diciamo, lo scenario è estremamente diversificato. Sostanzialmente anche delle band che stanno suonando, che suonano, diciamo, per delle major, tutto sommato fanno, diciamo, musica abbastanza interessante. The place where music comes from has nothing to do with magazines or or record stores or any of the business. E quindi i posti, sostanzialmente i luoghi da dove la musica nasce, non hanno nulla a che vedere con i circuiti commerciali delle pubblicazioni periodiche, delle fanzine, dei grandi magazzini. And so what is the same as 20 years ago, 40 years ago, is that you must look deeper to find something interesting. E quindi sostanzialmente l'unica cosa che, cioè, il messaggio reale è che guardando anche a diversi decenni fa, tutto sommato, insomma, bisogna guardare ben più profondo, insomma, per trovare, come dire, It's just everything is so different. It's hard to figure out where to look. È tutto così cambiato, e quindi sostanzialmente è estremamente difficile immaginarsi, insomma, dove guardare, cioè cercare anche di orientarsi, insomma, in questo. Because everything seems to be on the computer. Tutto sembra in qualche modo abbordabile via computer, via internet. But that's only one aspect. It's only one facet. Quindi è soltanto un aspetto, tutto sommato, quello che possiamo in qualche modo approcciare attraverso il computer, attraverso internet. you know, the experience of being together, of humans interrelating, is what makes music a beautiful thing. E questo è, vabbè, è davvero, insomma, importante, interessante, cioè quello che fa, come dire, la base del messaggio, diciamo, di comporre musica, è quello che tutto sommato è alla base delle relazioni umane, cioè essere insieme e, come dire, inventarsi, immaginarsi la musica. È più o meno quello che dicevamo, non so se l'abbiamo detto a microfoni aperti o spenti, quando lui parlava della necessità per tirare fuori, no? Per comporre musica, la necessità di stare insieme, di vivere insieme prima, sì, di produrre, sì, anche un solo brano musicale. Certo. Quindi l'esperienza musicale è, diciamo, condivisione della vita, insomma, in qualche modo, cioè si vive assieme, si mangia, si ride, si scherza assieme e magari si compone anche musica, o forse anche è attraverso questo. And it's, I mean, it's still there. People, there's plenty of people making music. Some people are trying to understand how to make it and make money and be famous or be successful in that way. But that was never really the point of, you know, of punk music and the DIY ethic. Beh, dice sostanzialmente che, vabbè, c'è un sacco di gente, tutto sommato, pensa a fare musica, a produrre musica, tutto sommato, per avere un ritorno commerciale in questo, ma insomma non è questo il punto. Ma la mia curiosità, quindi, rispetto alla tua esperienza, quindi, intanto, quanto è diffuso secondo te questo modo di pensare? Cioè, quante band, se vogliamo anche quelle che hanno a che fare con le tematiche dell'autoproduzione, quante di queste band secondo te effettivamente pensano, diciamo, pensano a immaginare, a creare musica in questo modo qua? Cioè, l'aspetto con questa filosofia, l'aspetto sopravvivenza, no? Come lo ha. For making, for music's sake? How extent is such kind of approach with music in your view? Oh, I mean, I have no idea. I'm not sure if I understand exactly, but what I wanted to say at the end of my last sentence was that there's also plenty of people making very interesting music. It's just that it's, yes, it might be harder to figure out. Quindi c'è sostanzialmente che, insomma, l'aspetto è molto vario, potrebbero esserci anche dei ventenni che fanno musica molto molto interessante, insomma il problema è, come dire, immaginarlo, tirarlo fuori, voglio dire, venirne a conoscenza in qualche modo, però di nuovo questo è il problema poi della grande distribuzione. So, of course, there's a lot, a huge interest in music around the world that you don't even know, nobody don't even know. Mm. And the problem is the big distribution, how these people and this kind of music can reach all of us. Yeah, it's and if that becomes a problem, then it's, you know, it's what you do in your community. E quindi sostanzialmente questo è il problema, praticamente forse dal quale siamo partiti, insomma, dal quale abbiamo iniziato, cioè che è il problema, è il tema affrontato all'interno delle nostre comunità, insomma, per quanto riguarda la nostra esperienza, dei compagni di Roma, in particolare di Roma, avevamo accennato a 99 posse, assalti frontali e quant'altro. Per parlare di vecchi e poi via via, sì. Oggi ce ne stanno altri. Va bene. E adesso arriviamo ai giorni d'oggi, alle tue scelte attuali, e lo facciamo sempre introducendolo con della musica. Forse. Maybe. Un po' di massa. It's not a safe to be a lawbreaker with our citizens way to react. Dishonest living is a thing of the past. Go get a job and forget about stealing. Self-fight, self-fight. could never be rebuilt. Veil had lifted, desire killed. Onda Rossa 87.9, mezzanotte e 21 minuti primi. E piano piano ci ha aiutato questo percorso di vita, tutto sommato ci ha aiutato poi quello che si produce a livello musicale, cioè i vari dischi che abbiamo ascoltato erano pezzi diversi, fasi diversi della tua vita fatta in comune, in collettivo con altre persone. E siamo arrivati al 2011 a questo punto. Ok. E siamo arrivati al 2011 e te ti sei trasferito nel frattempo dalle nostre parti qui a Roma. La vita ti ha portato da queste parti. Come è stata questa esperienza? Come ti trovi? Qual è la cosa diciamo che a cui ancora non ti sei abituato dopo ormai 4-5 anni che vivi qui di Roma, dell'Italia, e qual è la cosa che ti piace di più? Boy. Well, first I should say that my wife lived in America for almost 10 years. And she was kind of ready to come back to Italy. So that's how we ended up here. And then... Abbiamo un Larsen, un attimo solo. Okay. Okay. And then her mother needed us to look after her. So now we're in Rome for almost 5 years. Sostanzialmente la moglie di Joe ha vissuto negli Stati Uniti per circa 10 anni, e dopodiché in qualche modo i genitori di lei hanno avuto necessità che loro tornassero, e quindi sono già 5 anni circa che vivete quasi a Roma. Quasi 5 anni. And I keep leaving to play, to tour, and the only way I'm going to really learn Italian, is to be here and doing something where I must speak Italian. E quindi questo è il solo modo, dice, di imparare seriamente qualcosa di italiano, cioè vivendo qua, al di là dei tour che ha fatto in giro per il mondo. Lui sta imparando adesso veramente a conoscere la lingua e anche, diciamo, le usanze qui del posto. And I have to keep speaking English to my daughter so she can keep, you know, her English. E quindi lui sta però mantenendo la lingua madre, l'inglese, con sua figlia, in modo che lei possa, tutto sommato, come dire, if I well understood you, you will try to learn both Italian and English to her. She, yeah, I mean, I have to keep speaking English so she keeps speaking English because okay. she changed. Of course. Chiaramente, dice, lei cambierebbe abbastanza velocemente lingua, quindi lui preferisce mantenere l'inglese con lei in modo che lei non perda, diciamo, questa capacità. And, sì, noi preferisciamo. But I welcome the idea of living in another country. It's, you know, I think it's a I never imagined when I was young that I could possibly live in another country. My mother's mother spoke Italian. We too. but my mother did not speak Italian. So that's how quickly language is lost. E dice sostanzialmente che, insomma, da giovane non avrebbe mai pensato, tutto sommato, di trascorrere in un paese, diciamo, diverso dal suo, comunque in Italia, parte della sua vita. Regarding your mother, what you said about your mother? La mia nonna ha parlato sempre, tutti because, due, because, nonno e nonna, because she comes from, because sì, she comes from da Calabria. Ok, from Italy. Ma mia mamma non ha parlato mai in italiano. Ok. So, così era perso per me. E quindi ho imparato da Antonia più di... Che dalla tua famiglia. Sì. Ok. Un'altra volevo fare io una domanda. Questo vivere qui a Roma, dal pensi, insomma, ti sei fatto un'idea? Se comporre musica negli Stati Uniti è differente o uguale che comporre musica da qui, cioè cambia il luogo dove sei, cambia il risultato finale. Does that mean compose music? Sì, yeah. create writing music. Compose. You know, it's people often ask me, but I mean, it must be. Something must affect, you know, living in another country must have an effect, but I don't know what it is, you know. Dice che molte persone glielo chiedono e lui tutto sommato pensa che, insomma, il luogo da cui proveniamo deve avere a che fare in qualche modo con il nostro modo di comporre musica, ma realmente non sa bene quale. I've been very fortunate to find very good musicians. È stato abbastanza fortunato di incontrare, diciamo, tutto sommato, dei buoni musicisti qui. So, you know, that helps. Of course it helps. E sicuramente questo aiuta. Ma insomma, vabbè, un po' una domanda forse un po' retorica, ma la tua valutazione, diciamo, dell'Italia come società che ti ospita rispetto al tuo paese. Qual è la tua valutazione rispetto all'ambiente? Cioè, come valuti le persone, la nostra società? Man, every, you know, in a way, things are very similar. Society is very similar, and yet things are, you know, completely different. But I also come from Washington D.C., which is not a big city, maybe 600,000 people, 600.000 persone. Roma, non lo so quante persone, ma qualche milione. 3 milioni. Very different. Quindi lui dice che, insomma, tutto sommato proviene da una società abbastanza simile e paragonabile alla nostra, anche se le cose sono completamente diverse. Washington DC alla fine è una piccola città, lui dice circa 600.000 persone, totalmente differente da Roma. What about you know, the opportunity to play music for young people, for example, in the States, and what do you say here in Italy? What do you see here in Italy? Yeah, you know, since so much has changed since my daughter was born, that, you know, and she's 10, so a lot changed in America and everywhere. Dice che da quando è nata sua figlia, che ha 10 anni, un sacco di cose sono cambiate in America, ma insomma non solo in America. But that is the point where I stopped going to as many shows, to as many concerts as I used to. Ma quello è stato il momento in cui lui ha iniziato alla fine, diciamo, a fermarsi un po', a rallentare i suoi tour in giro per il mondo. Then I moved from Washington. I lived in Los Angeles, Portland, Oregon, then back to Washington, and then to Rome. Nonostante questo, diciamo che lui comunque ha vissuto, diciamo, si è mosso abbastanza, perché da Washington è stato a Los Angeles, Portland, poi è tornato a Washington di nuovo e poi a Roma. So, you know, I'm not interacting with, you know, a music scene like I once did many years ago. So this is the biggest change that I'm experiencing, you know, but I want to get up, you know, tomorrow morning and take my daughter to school. That's my life now, you know. Sure. E sostanzialmente lui non ha più, diciamo, grandi relazioni, insomma, come prima rispetto al mondo musicale, però tutto sommato lui dice: io, insomma, alla fine posso permettermi domani di prendere mia figlia e portarla a scuola. Sì. So, you know, and Rome is a little bit like New York. The shows are very late. E dice che Roma in qualche modo è un po' come New York. Ma questo abbiamo rispetto. Qualche dubbio. Questo rispetto. I concerti sono, you know, a mezzanotte. Da questo punto di vista si riferiva in particolare ai concerti. I concerti iniziano abbastanza tardi, ma forse qui sì, anche troppo. Magari anche troppo. So I always want, especially because this is now my hometown, I want to play, you know, what's comfortable for me, and also maybe my daughter can come to the show. So I want to play in the afternoon. and I will. Sostanzialmente a lui piacerebbe, tutto sommato, insomma, come dire, esibirsi nel, diciamo, pomeriggio. Nel pomeriggio, anche perché peraltro è un momento, diciamo, sicuramente più confortevole per sé, anche per sua figlia, insomma. Sì, e dopo pranzo, ma anche c'è ancora tempo per cena dopo il concerto. Perfetto. Okay. And I don't care if no one comes. I'm going to start. Qui magari nel pomeriggio non succederà, però come la raccomandazione è iniziamo puntuali i concerti, okay. Almeno questo. Va bene. I'll find places. Allora, abbiamo fatto mezzanotte e 33 minuti prima. Invece noi anche le trasmissioni le facciamo tardi. Ok. Vogliamo dire, dai, che poi ci siamo scambiati anche delle informazioni circa gli Scream, insomma, che tra l'altro incidono con la Discord, insomma, sono prodotti con la Discord, che suoneranno il 28 al Forte insieme a Ina, sì, sabato prossimo, il ricordo, tra l'altro, il concerto è dedicato a un compagno che è praticamente il fondatore di questa trasmissione a cui ha partecipato oggi, nel lontano 1984, credo 84, 84 Massimiliano, sì, che avremo tra l'altro in studio qui. Perché c'è quest'anno la ricorrenza triste dei 10 anni dalla morte di Roberto, appunto, che fondò questo spazio moltissimi anni fa, che cade il 15 febbraio. Ovviamente il 15 febbraio gli Scream non potevano venire perché il tour era, sì, la data più vicina era il 28, quindi sì, abbiamo scelto appunto sabato. Tu conosci gli Scream e ce ne parli un po'. Well, I want to say that they've been playing in America since, I don't know, last year or maybe before. And, you know, Ian, Guy, Brendan, everyone from Fugazi and many old friends have seen them play. Everyone said they're just amazing because it's nothing has changed. They're incredible. Dice sostanzialmente che hanno suonato l'anno scorso negli Stati Uniti e tutti gli amici, insomma, dei Fugazi l'hanno, sono andati a vederli e sommato la cosa è stata estremamente sorprendente perché la sensazione è che veramente era quasi come se non fosse cambiato nulla. Non sono più dei giovanotti loro. No, ma no, but they all, people also said they don't look so different. E tuttavia, diciamo, comunque non sono affatto, non sembrano tra l'altro affatto diversi, beati a loro. But they were always a great band to see live. È sempre una grande band, soprattutto dal vivo. Sì. Okay. Quindi tu ci sarai? Sì. Ok. E invece giustamente mi chiedono, vogliamo spendere due parole per il progetto di adesso, con ne abbiamo parlato prima fuori onda con Fabio, Elisa, insomma la band con cui suoni adesso e che tra l'altro io sono venuto a vederti con quasi tutti quelli che stavano qui e insomma l'effetto è stato molto importante, molto interessante. Parlaci un po' dell'attuale musica che produci appunto con loro. Well, I played with a number of different people when I first came to Rome, and then I met Elisa in 2009, I think, 2008, and it took a little while to get her to play guitar with me because she never played guitar live, maybe you know, once or twice. Dice che diciamo la prima volta che da quando è arrivato sostanzialmente ha incontrato Elisa nel 2009 più o meno e ci è voluto un po' di tempo all'inizio prima che lei insomma riuscisse a esibirsi, a suonare la chitarra con lui dal vivo perché lei non l'aveva mai fatto prima. She played drums e mostly. E lei principalmente suonava la batteria. And I saw her playing, you know, at home, and she's clearly a natural and very good guitar player, so I just made her play. Ha iniziato a suonare in casa e insomma lui ha realizzato che tutto sommato lei aveva una capacità estremamente naturale, diciamo, di suonare la chitarra e quindi lui l'ha spinta a farlo, insomma. And she plays guitar on the last record. And she plays flute, an Indian wooden flute, and she can play, you know, some saxophone and drums and piano, and she can just play. Estremamente eclettica, nel senso che lei sostanzialmente oltre a suonare la chitarra suona uno strumento indiano in legno e flauto in legno. Disco. E comunque suona, diciamo, abbastanza facilmente, agilmente, un po' tutto. E canta anche, ti aiuta, sì, nei cori. Sì, sì. And we played with Emanuele Tomasi from Noja Banda Trio on the record. And he plays with Noja Banda, but also two other projects, and rarely had time to really, you know, I need to practice. I need to practice more than lately. Lele is incredible. E quindi lei collabora sostanzialmente con diversi gruppi e progetti contemporaneamente, e sembra che tutto questo le riesca abbastanza naturale. No, adesso sta parlando di Emanuele. Ah, di Emanuele, il batterista vecchio, diciamo. E anche lui, diciamo, ha questa capacità, diciamo, estremamente naturale di collaborare con più progetti. Lui, per esempio, dice: io avrei bisogno invece di tempo. But after recording the record, we needed to find someone who could practice more. E quindi dopo aver inciso il disco, dice, bisogna trovare, insomma, qualcuno che possa dedicarsi un po' di più a... Sì, e we were very lucky that Fabio Kinka was available and looking to play drums again. Abbastanza soddisfatto del fatto che Fabio, diciamo, che ha trovato Fabio e che ha potuto in qualche modo, insomma, collaborare con... Because Assolti Frontali had changed and he was no longer playing drums and really wanted to be able to play drums again. So I had asked Fabio last year or 2 years ago when I needed a drummer to play a show. But he was playing with Assolti Frontali, so I was lucky that he was available. E quindi sostanzialmente è stato fortunato che lo ha trovato disponibile, proprio perché nel momento in cui lui aveva chiesto di suonare per un paio di concerti, lui, Fabio, stava suonando per Assolti Frontali. So now, you know, it feels like even though I write the music, it feels like a band. Sorry, I was thinking about what you were saying before. It's very late. Back to work. Va bene. So, sentiamoci Giollelli, la prima traccia dall'ultimo lavoro, che si chiama... What's your name? What is it? Oh, the name of the record. Album, yeah. Oh, why should I get used to it? Why? Dimmi. Perché l'hai chiamato così? It seems so obvious to me. Because I guess it's a little reflection on the state of the world today. È stato abbastanza naturale per lui chiamarlo così, è una riflessione rispetto allo stato attuale, insomma, del mondo. Ok, dai. Be taken away, and knowing what. Allora, penso che ci siamo quasi. Se Joy vuole aggiungere qualcosa, vuole fare i saluti finali, vuole dire qualcosa di essenziale che deve dire agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa, è libero di farlo. Potremmo offrire un pigiama, per esempio. Siamo tutti molto stanchi e ce ne andiamo a dormire molto tranquillamente, in silenzio, senza troppo inferire. Che ci volevi dire per concludere? Io torno con Fabio e Elisa e suoniamo un po', forse al giorno. Senza... Sì, lo facciamo di giorno. Troviamo un momento per che farlo. Che ci sembra la disponibilità più bella e interessante. Ok, benissimo. Caronte, che ci dici? Beh, niente di particolare, insomma, direi intanto grazie a Joe, grazie a Antonia che ce grazie l'hanno fatta fino a quest'ora, insomma, sono stati veramente molto molto gentili. E disponibili. E di tutto quello che avremmo voluto dire, abbiamo detto sicuramente non più del 10%, ma insomma ci sarà tempo e occasioni per riprendere il tema. Sì, sicuramente. Noi ci lasciamo per ora così, lo facciamo magari, io mando voi se volete anche, diciamo, evacuare la zona, così vabbè, faccio vabbè. La conclusione. No, ci ha invitato ad abbandonare lo studio quindi salutiamo. Ok, vi ringrazio a tutti e a tutte. Di frequenza di Radio Onda Rossa, 47 minuti dopo la mezzanotte, siamo in pieno periodo 25 o'clock. Abbiamo avuto ospite questa notte qui John Lely, che ci ha un po' riassunto in un'ora e mezza, forse un po' di più, 20 anni di storia. Vent'anni della sua vita e del suo modo di vederla, di approcciarla, di essere in qualche misura politico. Settimana densa per Radio Onda Rossa. Quindi seguite, continuate a seguirci, perché ci sono tante corrispondenze, tante iniziative in questi giorni, proprio domani, venerdì e via discorrendo. Non ve lo diciamo, non ve le riassumiamo a quest'ora perché siamo letteralmente cotti. Vi rimandiamo al sito www.ondarossa.info per avere le ultime informazioni messe sul sito proprio nella giornata di oggi, e di ascoltare la radio comunque, che ripartirà, riprenderà domattina le trasmissioni con la replica del GR delle 19.30 alle 7.30 della mattina, alle 8 la rassegna stampa con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, gli aggiornamenti della città d'arresto del globo. Alle 12 Mamma Trona. alle 13 il GR seguito dallo spazio comunicazioni e poi via via si va dispiegando tutto il palinsesto della radio fino a chiudersi con le trasmissioni musicali della notte, Gypsy Balkan CPT Music, La Cicogna Nera, In Noctibus Panis e Apostasia. Ringraziamo tutte e tutte per averci ascoltato fino a quest'ora tarda. Il nostro più importante saluto va comunque al solito a tutte e tutte coloro che ci ascoltano a condizioni di limitata libertà personale, senso carcere, la latitanza, clandestinità, gli arresti domiciliari, i famigerati CIE. Ci siamo. Radio Onda Rossa c'è. Libera nell'etere romano e laziale. Bella così. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo e chissà cosa uscirà fuori per il prossimo mercoledì.